Cadena Radial Colombiana. Conquista todo lo que quieres en tu vida. Conquístalo todo con Renault Koleos. Renault Koleos da la hora en la W. 12 del mediodía, un minuto en W Radio. Techo panorámico y un cielo estrellado. Acabados en cuero y confort incomparable. Asistente de parqueo automático y la libertad que quieres. Detalles de lujo y un diseño elegante. Tracción 4x4 y cualquier paisaje será tu destino. Conquista todo lo que quieres en tu vida. Conquístalo todo con Renault Koleos. Para más información, consulta en Renault.com.co. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo. Disc jockey y al aire en W Radio. Recorrido final. Arrancamos con Ornella Vanoni, grandes éxitos en la televisión, refinada, sensual, canción melódica italiana, Ti Voglio, y luego Strani Amori, Amores Extraños. Laura Pausini apareció como entrenador en las versiones mexicanas y españolas de la franquicia The Voice. Che c'erano in me. Mi piace, immagini, baci, cosa importa voler sapere domani cos'è. Mi tocchi, si chiudono gli occhi, sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te. Tu temi i problemi che io ti darò. Mi voglio, mi piace, mi voglio. Dillo ancora che ti voglio. Mi guardi, mi guardi, usi mille riguardi ed intanto balbetti ed aspetti una mossa da me. Mi voglio, mi piace, mi voglio. Dillo ancora, dillo ancora. Coraggio, coraggio, mettiamoci in viaggio. Vadiamo da questo parcheggio di mille perché. Mi spoglio dei mille problemi che c'erano in me. Ti voglio, mi piace, mi spoglio. Dillo ancora che ti piace, mi piace, immagino i baci. Cosa importa volere sapere domani cos'è. Sempre, ah. Dillo, bella, dillo, bella, dillo, dillo, amore, dillo, amore, bella.